c'è qualcuno qua? Mi devo prendere tutto? E perché vuoi prendere tutto? Anche oggi. Stavo dicendo, per ascoltare non c'è un'anima in nessun canale, manco propagazione giù mai. E infatti non ce n'è. Stavo guardando poco fa. Io acceso ho sentito a te. Stavo controllando, vedendo le stazionali. Sì, anche ogni tanto, dopo piogge o dopo vento, controllo se col vento controllo se c'è ancora l'antenna. E dopo le piogge vedo se è tutto a posto, ma qua vedo che abbiamo fatto un lavoro certosino quella volta lì. E infatti, l'antenna non la vedo da qui vicino. Come l'altra? Bisogna che mi sposti, perché adesso è non è in faccia, è sul tetto. Oggi, ma soprattutto si vede la via Sorso, cazzo, è poco scandalosa. Adesso che è in alto si dovrebbe vedere bene, forse anche dal ponte Rosello, no? Beh, non forse, per forza. E da via Sorso al ponte di Rosello si vede. Mi sembra che c'ho una foto che aveva scattato Adriano. Aspetta un attimo. Io sto cucinando, oggi è andata così. Ho detto, ma fidati alle 2, ho detto meglio che mangi prima, fidati. No, no, mangio dopo. E beh, sono tornato alle 5 dalla spesa e altre commissioni, adesso stiamo mangiando a un'ora, pranzando a un orario scandaloso. Oggi è un'eccezione però, le altre volte già ci siamo dati una calmata rispetto a una volta. Va bene, la pasta è così cotta, adesso la scolo e poi si vedrà. Dimmi tutto, cosa mi stavi dicendo? Una foto mi dovevi mandare? Sì, quella dell'antenna e il gattino di coso. Di valutate la documentazione prodotta dal carcere di Adriano. Delle valutazioni nuove. E naturalmente adesso, siccome c'ho il dito di sblocco un po' unto, come stavo cucinando, per le baracchine sto usando la sinistra, e me la leggo dopo, me la guardo dopo la foto, ok? Tu mandala, tranquillo. Sì, no problem. Cioè chiamiamo, allora, testimoniare. Così ti mando la foto. Gli occhi, che come di rado la storia ricorda. Cosa? Che dopo mangiato mi abbioccherò di brutto, quindi dubito che entrerò. Sono entrato a salutare. Ti abbiocchi, bubu. Entra che ci facciamo due chiacchiere. Vabbè, ma sai cos'ero? Tutta la mattina in giro, quasi tutta la mattina, poi tutto il pomeriggio in giro e adesso un po' sto crollando. Io sono delicatuccio, lo sai, no? Sì, sì. Volevo dire Mandrone, ma Mandrone era brutto, allora ho detto delicatuccio. Lo riconosco anch'io, non è che dico, no, no, è così, sono Mandrone. Io sto cercando quella dell'antenna, che dovrei averla. Alessia Bisperi è una donna capace di intendere e di volere, o è una donna così malata, te la mando. Di un mondo parallelo di fantasia fuori dalla realtà? Io pensavo che quello libero che l'avevo lasciato bastasse. Lei conosce le conseguenze del digiuno prolungato? Eccola qua, trovata. Io le chiedo gentilmente di non credermi, per favore. Dice sul serio o mente quando afferma davanti al giudice con voce cantilenante di aver pensato che un libero potesse essere sufficiente? Così la vedi quanto è alta. La sua bambina. Ho sentito lo squittio della notifica, dai, dopo me lo guardo. Ok, quediti per me, dai, vado a mangiare. Ciao Natalia. Saluta a tutti quelli che hai a tiro dentro casa e davanti casa, ok? Ciao. Ok. Vabbè, buon pranzo, Marco. Thank you. Ok, avanti. Luca, già, vai. Ciao, buonasera. Guarda che mi ha mandato una cosa sul WhatsApp. Perché sta caricando il telefono adesso, dopo lo guardo, vai. Non ho gente. No. Una cosa che ho appena finito. Per quello che abbiamo noi due. Cappa. Ciao, ciao. Guarda, aspetta che vado a accenderlo, mi sta incuriosendo. E per gli americani mi sentisce? No, c'ho lo scotch chiuso. Dopo lo scotch è serrato. Senta mia voce. Wi-Fi, wi-fi. Carino, vai, contro c'è dito dentro. Guarda già. Che carino, ma nel mio si può. Ma io non ci sta perché è a livello, capito? Come a livello? Non me lo ricordo il tuo come. Vabbè, c'è il tappo completo anche. Si può fare proprio il tappo completo. Come mi avevo fatto nelle altre radio. Capito? Tappa. Sì, ma è una cosa. Adesso ne sto stampando un altro più. Ancora più sottile. Ancora più fino, eh. Bellino, perché così non si consuma la questione. Sì, anche più comodo, certo. Ma col tappo sì. Ma aspetta, se non sbaglio avrei da qualche parte il tappo dell'altra radio. Boh, dice il busto, non lo so. Proprio che copre tutta la manopola, capito? Ah ecco, cioè se rispondere dall'altro microfono ti sta. Ha copre tutto quanto. È meglio forse quello. Ma questo con quel macchinario là l'hai fatto? Sì, ho stampato in 3D. Che materiale metti? Qua PLA. Se è roba per esterno, a seconda di cos'è, PETG o comunque anche PLA. Dipende da cosa deve supportare il pezzo, capito? Per roba interna va bene anche il PLA. E come funziona? Tu devi fare un prospetto oppure no? Eh beh certo, devi fare il disegno in base a cosa devi fare, no? Ci sono dei software che di costruzione appunto che tu gli dai le misure, tipo Tinkercad o ce ne sono tantissimi di software, di programmi dove tu costruisci in base alle misure che ti servono, capito? E poi non fai altro che metterlo nella chiavetta, nella SCD e metterlo in stampa. E poi dal disegno ti fa il pezzo, va? Esattamente. Ti fa un po' vedere anteprima, se vuoi modificare qualcosa, capito? Se vuoi aggiungere scritte o altro. Tutto puoi fare. Ma che dai filamento a Edda, da Zandelli. Quindi ti puoi costruire anche dei pezzi che ti si rompono, eccetera. Certo, manici, supporti. Se si rompe un pezzo lo ricostruisci, capito, anche ancora più solido, come i supporti dei microfoni, per dire, del 60, no? Ne ho fatto. Che non si facciano in barò, come ti dici originali. L'ambientarra più originale del 60 ti si va in 4 bizzi. Vabbè, è difficile che ti cada perché l'MC 60 è da tavolo, quindi lo tieni fermo, non è che lo muovi. Più peraltro è quelli microfoni a palmo, quelli già ti cadono. Una volta infilando il microfono, togliendolo, sai quanti ne hanno spaccato? Gli hanno facciato uno o due di chissi. Sotto, soprattutto. Ma la plastica con l'andare del tempo poi si secca, è quello. Magari basta un piccolo tocco e li vara. Sì, si spacca sotto, nella curva si spacca, di solitamente i supporti. Ma con questo materiale qua, tranquillo che non si spacca. Invece a me mi si è spaccato il portamicrofono del karaoke, praticamente dove si appoggia il microfono, quando quando finisci di fare karaoke si mette il filo dietro e si appoggia, è tipo quello delle Meci 60, la cosa, la tipologia è quella, solo che è avvitato, capisci? Sì, mi pare quella di uno di chi. Aspetta, ti mando la foto, guarda se è questo, mi sembra che ce l'ho. Sì. Fammi vedere la base però. Quella potrebbe essere, però bisogna avere la base, c'ha la placca con le 4 bit. No, la base di questo c'ha una filettatura che va a vitare da un'altra parte, capito? No, adesso ti mando la foto, no, non è così, Giulia, già, lo vedete, guarda, ti mando la foto, sto mandando la foto adesso. Questo c'ha filettato. Ti ha mandato la foto già? No, perché quello lì va sull'asta, quello lì è di quelli che si mettono sull'asta, invece il mio c'ha una piastra con 4 viti che si avvitano, capito? Aspetta un attimo, provo a disegnarlo. L'hai visto, te l'ho mandato. Aspetta, guardo. Ma cos'è, regolabile? Cosa, Luca? È regolabile? Sì, si abbassa e si alza. Non hai visto. Mi sopporto così. Ma anche se fosse fisso, l'interessante è che ci può mettere il microfono dentro. Capito? Questo qui è attaccato al karaoke, capito? All'amplificatore del karaoke. E quando finisci ti appoggi il microfono e vabbè, si è aspettato perché la plastica qui va a finire che si secca e si rovina. Quella plastica lì sì, ma te l'ho detto, anche con i 60, secondo di come c'entrava il microfono o lo spostavi ti si spaccava sotto. Ho capito. E vabbè, ma che otto le fuori. Tanto si può parlare con le dente. Là. E me. Qui. Ciao Antonio. Ciao, e beh, tutto a posto già. Tutto a posto e niente in ordine. Ah, io mi sono fatto già la cena, me. Beh, da te. Io no. No, ma stasera mangerò qualcosa di veloce, dai. Perché mi sono fatto il minestrone e l'ho fatto per un reggimento. Sono stato 2 giorni mangiando minestrone. Minestra le verdure, ma già fanno bene, dai. Sì, quello già fa bene. Niente, mi sono tolto salamini al sugo, così buoni, guarda, cipolla, un po' di affogliare loro. Beh, buono ci sto detto, dai. Anche avevo voglia di bagnarmi uno di quei quadratini che c'ho di pane e mettere al sugo, mangiare il salsiccione, cioè salsiccione, no, sono salamini, ma buone veramente. Ieri invece mi sono mangiato, allora non ho cenato perché non avevo voglia, mangiando mi sono mangiato 5 pacchetti di cracker. Cazzo, mi è stata la glicemia 2,90, la mazza viene in varia. Sì, è un grido, sono carboidrati, per forza che ti sa la glicemia, è normale. Se tu mangi carboidrati, io sì, un pacchetto lo mangio qualche volta, quando c'ho l'hamburger a merenda mi mangio quello lì, un pacchetto di cracker, e a volte ci metto quel formaggio piccante spalmabile, ma appena, tanto per gustarlo, per dare il sapore. Bene, Eric, ma che ti c'è la zappa della Mondezza? Ma che la grigina, ci non ne mangio più. No, ma li puoi mangiare, se ti interessa te che non ne mangi 5 pacchetti, Turin. È normale che se ne mangi 5 esageri, ma se ne mangi un pacchetto non ti fa nulla, addirittura beh, me l'hanno messo nella dieta, un pacco di crackers per la mattina, a metà mattinata. Vabbè, io non c'è nato niente però, capito? Allora, ho letto i cracker, praticamente ti passa la voglia per mangiare per 2 ore e poi ti diviene. Questo ho letto su internet. Quindi è una cosa che insomma ti fate credere che sei sazio, ma non sei sazio. Lo so, ma uno stuzzicchino magari a merenda, così va bene. Ci metto il formaggio spalmabile, quello piccante, poco è buono. Vabbè, comunque oggi mi è venuta questa voglia di fare, e sono uscito, ho visto questi miei salamini, 8, cioè 8 o 9, Le ho presi, me li bucati, con coltello, appunto il coltello, la parte all'altra. Ho fatto bene, ho iniziato a fare il suo, cipolla con l'olio di oliva, dopo quando era bella quasi soffritto, senza farla bruciare, cipolla ovviamente, ci ho messo salamini, poi le ho fatte bene a rosolare tutti quanti e poi ci ho buttato il sugo dentro, poi un po' di sale e un pizzico di zucchero toglie l'acidità, perché lo faccio sempre, ed è buonissimo il sugo. E poi tre foglie di alloro, un bomboe. Se tu usi l'antonella non devi aggiungere nessun zucchero, perché sono già dolci così, sono normali, non sono acidi. Prova gli antonella e pomodori, e poi mi dirà la risposta. Ma gli antonella le vedono già in bottiglia, come le prendo io? Li vendono in bottiglia, li vendono in bricche, li vendono anche in latta. E allora, la persona, ma è dove io non vedo neanche l'antonella? Dov'è che li trovo? Sono pochi supermercati che ce l'hanno. Ah, ce l'hanno tutti, tranne gli Eurospin e i supermercati, quelli che vendono roba da prezzo, vai. E di discount non ce li hanno, ma i supermercati normali, tipo la Conad, quelli lì ce l'hanno. Niente, io sono andato alla Lidl e non ce l'hanno. Ma bene, lo spino sappiamo che non ce l'hanno di questa roba qua. Poi MD non ne hanno neanche. Devo già andare. Vabbè, un po' di pratica. Dov'è che l'avevo visto? Sono quasi quasi, pure non ha più pigliato. L'esercito del capo. Ma vai, farò una provvista queste bottiglie di Antonella. Sì, lo so perché lo usava anche la Mex, lo usava, capito, Antonella. Sono molto buone. Però invece ci do il capo, io la presa da attacco del vostro peso, piglio 4, 5, 10 bottiglie, questo è il suo, però ce lo metto a goccio un disco di zucchero perché sono già provato la città, non è che sia al 100% buono, capito? Quindi ho provato una volta senza bollino di zucchero per accarezzare, no. E quindi niente, va bene così, dai. E allora, cosa mi stai combinando? Sei beccato, sai? Sì. Guarda, se vai da Dippali, dove vado io, ce li hanno, però in brick ce li hanno, di Antonella. Forse ce li hanno anche in latta, non lo so. Ma in brick ce li hanno sicuro. Ma in brick conviene o non conviene? O meglio in bottiglia, non lo so. Ma io li uso in brick. Io li uso. Sono buonissimi. Non c'è niente da dire, non c'è l'acidità né niente. Io faccio il sugo e c'è dolcissimo. Vabbè, io ci metto anche il basilico nel sugo, magari anche per questo. Sì, ma ci metto la loro che mi dà più sapore, capito? La loro fresco. Che qualche persona ha detto, no, devi far seccare, fa male la loro fresco. Ma fini meni, o qua su internet invece hai più sapore, più forte, più buono. A me piace così, mi piace. Non c'è mai vasemare, devo venire a vasemare. Che poi se abbiamo visto le erbe fanno sempre bene, lo rigano. E rosmarino, la loro, fanno bene, mica te lo sembra niente così. Luca, lo so, gli origano della loro ce n'è ad alberi qua vicino a casa, ce l'abbiamo anche in cortile noi. No, io vado giù in quella campagna stesso, è vero, è vero, mano a mano, ando, io ho 3-4 rami grossi, via, prego a casa, lo spero, piano piano, foglie come foglie, e poi le pongo un contenitore, e poi quando si svanova, si secca, poi lo uso, capito? Già va bene, no, ti dà meglio la roba del suo, è troppo buono. Mi sa che a Natale me ne vado a Roma prima di Natale. A Roma vai, ma beccato vai. No, a trovare un amico. Che è tutto subito malizioso. Sì, c'è anche una che sto conoscendo di Roma, comunque. Sumadu, ci stiamo sentendo ogni tanto, però mi vado a trovare un amico e a Simone. Simone, mi ha detto, a me un caffè, mi ha già invitato, metto un caffè, ti faccio una panza. vabbè, se vuoi andare non c'è problema, tu ne fai bene. Una settimana me la voglio fare, capito? Tanto, non sono andato nessun lupo, quindi una settimana, uno o due giorni in Simone, cinque con lì. Ehi, va bene, va bene. Va bene lo stesso. Poi vedremo se sono fioriranno. E se no si dà via luci. Se sono rose fioriranno. Vabbè, dico fiori, mettere i cannoni. Oh yeah, non a giocare. Comunque posso dire solo una cosa, guarda, la settimana scorsa mi è volata, una settimana volata, già domenica, oggi, arrivare. Cosa faccio? Domani c'è martedì, ma dimmi tu. Stanno correndo le giornate. Hai fatto molte cose quindi. Si è impegnato la pantalonanza, la quarantena, l'ha portato all'ospedale, ha fatto tutte le visite, infatti mi ha detto, ma adesso c'è un dio, domani faccio un trucco, domani devo portarlo a Siri, se opererà la cataratta, capito? Io lascio la macchina mia, prendo la macchina sua, nuova nuova, la Ford Focus, bella. E domani sostituirò, pane pane. Ma chi è quello che abita del padrone di casa? No, il padrone di casa è Muccio, dice, l'hanno passato. Questo è un altro anziano che ho conosciuto, tipo in gamba, e quindi niente. Ci sto andando, aveva prima il figlio non gliela fu tenuta di andare, e quindi conosco di vista il figlio, e mi ha detto a me, fa una cosa, ti fa pagare a babbo. Anch'io, anche tutto anche travaglia da fare, non posso che ha presento. È in gamba. Vabbè. E rubavo l'ha fatto pure la casa a me, pensa un po'. Quello che fanno i genitori per i figli per i genitori non lo fanno mai. E allora, purtroppo è così. C'era voce di tirato da pigliare il medicino, non è andato, ho fatto qua, ci ha mandato a me. E vabbè. Preghiamoci di stare, di essere indipendenti, anche se no guai. E allora, mi dovevo andare in farmacia a pigliare la pastiglia, non faccio di pastiglia. Devo passare, e vabbè, ormai te la porto, le balle, me la sono riticato. E vabbè, tanto, già ce l'ha una. Sì, che farmacia c'è là? Capita quella di Vidi Mille, quella cagata che c'è all'angolo di Via Sardegna. Ah, e come dici di chi sei, chi sei lui? Beh, cagamella. Meno lì, c'è lui. Buonasera a tutti. Ciao Lucrezia. Ciao, c'è la Nannini. E allora? Già, ero di passaggio in quelle zone là, capito? Ah, ecco, perché è un po' fuori mano lì. Avanti Luca. Venga. Sono anche su TikTok in live, ho già messo il mute. Allora già. Ma avete visto cosa fa da domani Facebook? Che praticamente se tu gli concedi di prendere le tue fotografie, di mandarti pubblicità eccetera, non paghi, se no devi pagare. Cosa pago? Guarda che ho messo i link su Facebook, ne ho messo due addirittura. Sì, io pubblico buongiorno, buonasera, grazie. E paghi buru paghiso, se non gli dai il permesso di mettere le tue foto, le tue cose, ma sì, ma c'è un avvocato che ha detto che praticamente non lo possono fare perché c'è la legge sulla privacy, non possono ricattare così. Ma che sai quanto te la fa un culo? Ah, io a me, proprio a Facebook, entro così a Baito Bovenante. Saluto a qualche amico e buco. Io più che altro TikTok uso, ma Facebook sì, lo uso, un saluto, una cosa. Prima già facevo parte di diverse app che c'erano di separati, ultra cinquantenni, eccetera, eccetera. Ma non mi gioco più andando. Diversi gruppi allora. Ma ci sto parlando però. Intanto è tutta una baggianata. Per carità. Io manco il micio questa cosa, a me invece mi sono sempre stendi i telefonati, ma corrente elettrica, ma prendetevi la luce. Addirittura una matrice mi ha rompito il ricatto, ha detto guardi, ho già fatto contratto, e con chi non si dice, e quanto ne sta facendo? Il 0,002, mi ha chiuso il telefono. E io invece volevo tenere il mio telefono di casa, poi ho telefonato alla Vodafone, ci volevo 200 euro per tenerlo. Ma sta scherzando? Ma tu paghi un intoto al mese, giusto? Esatto. Ecco, non pagare più, adesso te lo ritirare. No, ma ci mancano la in banca, loro li prendono direttamente dalla banca. Tu fai una lettera alla banca di non toccare più Marco Cicolini perché hai fatto la disetta, devi fare la disetta e gli dà la copia anche alla banca. Sì, ma aspetta, 200 euro per prenderti la linea, ma stai scherzando? No. Cioè questa gente sono ladri proprio. Scusa, quanti anni ce l'hai tu questo telefono? O da poco ce l'hai? Con voi Vodafone ce l'avrò in 5 anni. Ecco, io posso capire se tu hai appena iscritto devi fare almeno 2 anni come in base al contratto, ok, ma se ce l'hai 5 anni se ne vuoi cicando uno devi pagare nulla, ma voi ce l'hai. Tu non figli il sacco tuo quanto e fa la disetta, la dai alla banca, non mi toccate neanche per 5 anni perché ho fatto la disetta, se no cambia banca. Io dici che le tolse tranquille fanno quello che dici tu. Beh certo. Ma guarda un po', ma solo il fatto che ti abbiano proposto, mi ha detto guardi lo può fare anche per telefono, però le dico già che ha una spesa di 200 euro per staccare la linea. Allora detto, non c'è di macchina, dammi tu 200 euro, staccare la linea, ma cosa viene a staccare? È tutto via internet la cosa, va bene, forse brutto vai. Per staccare due fili poi sarebbe, ma tu pensa che a mio figlio ha detto fammi staccare il link che ho io, internet. Ci vuole un mese, ok, vabbè. Poi dopo un mese me lo staccano, mi staccano la parabolina che mi hanno messo, si prende il modem, boh, ciao, non devo pagare nulla. Perché tu qui sono voto a fuori di pagare? Ma 200 euro, ma io ma capito, questo è un furto, Furto solo, Luca, con chi stai chattando? Con quelle cagliaristane dell'altra volta, ma che ridai. Luca, fai da bravo. Non viaggio ancora. E vabbè. E che già mi va. Quindi, purtroppo Vodafone ha capito che tutti si scrivevano da loro e poi come hanno aumentato i prezzi, ti rubano soldi, ti fanno, perché adesso vedrai che già si ammassa, a poco si ammassa che c'è molta concorrenza e molti se ne stanno andando. Come l'energia, perché giustamente troppo caro le bollette, infatti me ne sono uscito, ho fatto a disetta, sai cosa hanno fatto figli di scaglia? Mi hanno fatto pagare 80 centesimi a kilowattora, ma stiamo scherzando, è un furto. E allora mi hanno ricontattato e metto se tornavo con loro mi fanno a 0,17 a kilowattora, allora va bene, e sono tornato con loro. Se non mangi che figli di scaglia, se tu non ti nandi di sempre datati il calpesto con le bollette alte. Ah vabbè, già pago, non pago tanto adesso di luce. Prima pagavo 3,200 euro. Sì, cazzo, io ho fatto 2,29 su 179 kW, ho fatto il conto e mi è uscito addirittura a 80 centesimi a kilowattora. Dico, ma che, vai. Tu mi conosci con me di luce, sei sempre con trappa, lo ghiso, mi basta. No, ma non ne sto usando, guarda già, la verità. Anzi, dirò che per 2 mesi a vedere quanto la bolletta non ho attaccato neanche la bagna perché c'era ancora, faceva caldo. E quindi per agosto e settembre ero a posto io. Se mi scendo 229 euro di bolletta, no, le balle. Ho tutte le lampade a LED, fuori sto usando le lampade quelle cioè a pannelli solari, non c'è un prezzo. La che faccio tutta la corrente si è consumato. La lampadina attacco una volta alla settimana, poi anche a 30 gradi, neanche a caldo per consumare, quindi. E cosa ti posso dire? No, il forno l'ho acceso soltanto 2 volte, che è elettrico. Poi ho capelli, non li uso perché ho capelli corti, quindi. A me mi è partito il forno a microonde. Guarda, in questo periodo mi sta partendo tutto. Forno a microonde, la lavatrice che cammina da sola. Io ho messo la bella cozza e non si muove più la lavatrice. Assolutamente, non metto il lavaggio mezz'ora e sono a posto, capito? Tanto. Anche io ogni di mi giambo, quindi la roba non è così sporca, e quindi. E niente. E cosa ti volevo dire? E poi in lavatrice ci sono quelle che camminano lo stesso, a me non mattessi, si andava verso il gabinetto, aveva tenetora da retto. Quando si metteva a fare la centrifuga, correte andava in bagno e no, aveva macchina. Ho messo una bella cosa già, non anda più nel lungo. Ma dove ne erano? Sono stati i pilini. E allora? Perché giustamente quei pilini scivolano, per il pavimento è liscio, capito? No, ma il problema non è quello, è l'ammortizzatore, insomma. Praticamente a furia di usarla, gli ammortizzatori si smallano come la macchina, hai visto come fa quando entri in curva che gli ammortizzatori scarichi, che malla, così fa la lavatrice, la stessa cosa. No, non è ammortizzatore già, c'ha le molle che mantiene il cestello, e c'ha anche i pizzi, giustamente, se no si fa la dura quando va, c'è tipo, Le molle sono praticamente, gli ammortizzatori del cestello sono la molle, no? Dunque la mia non si muove più, è tranquilla, andrà bene Meda, e vabbè, e che ci vuoi fare, la vita è questa. Comunque, a me questo mi preoccupa, che le giornate passano così veloci, perché il cazzo è no che si picchia prima però balla. Sai perché? Perché magari non sto facendo nulla da essere soddisfatto, se magari facessi viaggi, roba del genere, allora saresti più appagato, va? No, perché ho molte da fare da una parte all'altra già, e quindi vedi, adesso mi sei fuggito da anche mesi, ma vado domani in pomeriggio, perché domani devo andare fuori a Uccieri. E qui domani devo partire chizzo io, ma un me chizzo, alle 6:45 devo prenderlo, quindi. E niente, da una parte all'altra, per quello, e fare un po' di spesa, e insomma, mi dicendo, mi vuole la giornata ma come l'accorgo, poi arrivo a casa, e cosa mi cos'è? E mi sta volando la giornata, se invece non fosse venuta la giornata non passa mai, fare più bella, più lunga, invece. Ma quando ti passa in pressa ti fai burrivina e arrotondi. Certo che te lo devo rimanere così, io all'inizio me l'ho detto che nel tonno, ascolta, se ti va bene così, la deposta del peso, buona la benzina, fai tiro, però se devo prendere l'ospedale, se tutto il giorno con te, dalla parte all'altra, o andare fuori come te da Uccieri, è 50 euro, quindi. E infatti adesso domani mi dà 100, sono 50 oggi e 50 domani. Tra la macchina consuma solo olio e benzina, anche se io faccio quegli 8 km da dare da lui, ma 8 poi le faccio al ritorno per trovare una casa mia, anche se prendo la macchina blu 8 metto, ma c'è a prendere la macchina mia, e la prima cosa, vieni tu a pigliarmi e si guida la macchina mia non me ne ferma, o se mi dai la macchina tua e la tengo fissa io, allora dice no, facciamo così, bravo. Io vado in incontri, buscia a casa sua, intelligente sono, si pensa sia intelligente. Va bene così, niente. Io mi sono fatto un bel lavoretto qua sotto la veranda, però poi ho fatto un casino con questi affari qua già. Devo prendere l'altra scatola, che c'è la nuova nuova, guardare vicino e studiarmelo, perché non so cosa ho combinato col telecomando da una parte all'altra e mi sono incasinato i fari. Tant'è vero che rimangono accesi 3 ore o 4 ore e poi si spengono. No, era fino acceso la mattina, presto, bellica, adesso fare alluvionate, si carica poco la batteria, forse devo mettere da 8 ore, come era prima. Però c'è una procedura che io non mi ricordo più, e devo pigliare di vicino. Sai, Mario, se c'è qualche timer che devi far accendere e spegnere da quell'ora lì. Controlla il libretto, se ce l'ha il libretto di istruzione lo guardi. Sì che ce l'ho. Gli altri li buttati via, però c'è ancora una scatola nuova sigillata di zecca che vuole fare a 100 watt e c'è le risorse. Tanti telecomandi ne ho 4 io, uguali, ne uso uno solo. E più il quinto è dentro la scatola perché è tutto sigillato. E mi prendo il libricino e guardo dove devo memorizzare. Perché forse non l'ho memorizzato. Bisogna 2M e vai comprendere un po'. Devo guardare il libretto delle istruzioni. Ho capito. Vabbè. E già piano piano già riesce a fartelo là. E cappa. E va bene così, andrà bene. Niente, non mi stanno, c'è. Mi sa che a fine settimana mi faccio la fede in casa. Ti fa la fede, a chi tu fa la sai? Certo che lo so fare. Io ho tutta la ricetta, caro Gianni. E c'ho anche la teglia, bella bella, e c'è una signora Fainì. Come ce l'hai stagnata? È una teglia in lamierino fatta, ma non è proprio come la Fainì. È una teglia che avevo comprato io, ma va bene per fare la Fainì, perché l'ho messa più di una volta nel forno e ho fatto la Fainì molte volte, capito? È uscita veramente buona brossolita. No, io non ne ho mai fatto. Grazie alla quella di fronte la fa molto bene, sembrava fatta dal forno. Un giorno me l'ha portata e ha detto, vieni, la sedia la mia Fainì. Oh, ma che c'è lui, io sono giuro che imparata, e te l'ho fatta io, mi ha chiamato la figlia, chi l'ha fatta la Fainì? Tu. Insomma, buona poi. Guarda, una busta, io vado alla CRAI, compro una busta, fa via per cicci. è un pacco da un chilo e mi pare che costa una cazzata. Ma sai quante pareti fai? Ci va 300 grammi, per quello che faccio io. Ti dirò che fai fede a uffadura. Ma bisogna sapere quantità di olio da mettere e tutto, capito? Mi pare che siano in una teglia grande, se le mettono tre cucchiai, tre mestoli. Io lo so perché Gianfranco, amico mio, ci aveva il forno e lo vedevo come la faceva, poi la girava col mestolo. Sì, ma loro ne fanno bene la macellona ai mani. No, io per quello che mi serve a me mi basta anche una macellina normale, capito? E quindi ho tutto la licenza che mi ha lasciato mia sorella e ce lo c'aveva, l'ho fatto sempre così, è sempre buona uscita, è perfetta. Poi la fai riposare, io anziché girare a mano c'ho il fruzzino, capito? E quindi esce perfetta. Poi va riposata, la faccio riposare 1 o 2 ore, poi con panno sopra, poi ci va la teglia che va oliata, col pannello ta-ta-ta-ta-ta, a posto, poi ce la metti dentro, ta-ta-ta, fai il goi, poi ci metti cipolla, ci metti salsiccia, un bombogia. E dove la fai? Nel forno a gas? Non ho capito. Nel forno a gas la fai? No, no, io ho il forno elettrico. Ecco cosa consuma. Quello consuma un bene. Gianni, l'anno scorso non ne ho fatto, quest'anno la voglio fare, capito? Ecco perché consumi. No, c'è su quell'azienda che non ha ancora attaccato. E tu sai cosa fai? Quando la fai, passa a casa e ce la mangiamo. Dai, non la sa fa. Vabbè, quando la faccio, dai, già te lo dico. No, ma non c'è bisogno, quando vuoi ce la facciamo anche al forno, ce la mangiamo. È buona, quella di Zizzo. Ebbene, possiamo sempre comprarcela e farcela, così non si sporca niente in casa. Infatti. Vabbè, diciamo che è una soddisfazione mi farla in casa, non è che ci sia convenienza, perché la soddisfazione è bassa, perché poi se te la urli, addirittura quello della pizzeria la faceva prima la fainé, adesso non le fa più perché si è messo a fare panini invece che la fainé, panini e roba fritta, tipo di sofficine di pesce, di pollo, queste cose qua, faceva anche i calamari, erano molto buoni, non ne ha più preso perché ha detto che dove li prendeva non ne ha più ordinato da quella ditta lì, che ne ha un'altra ditta che a lui non piace e non vuole prendere i clienti. No, ma è meglio, la panina mi piace pure uno panino, è più forte di me, io da piccolino lo stesso, fra, ho già. Io quando mangio 4, 5 fette di panino sono l'uomo più felice del mondo, guarda. Troppo mi piace. E infatti, poi chi su me perché dall'azienda, a me non mi piace. Il pepe, il pepe non è buono, non è buono. Mi piace con la cipolla o con la salsiccia, troppo buona. Sì, a me è normale, non mi si va, non mi piace nemmeno a me. Mi piace così come è tutto con la cipolla, poi cipolla e salsiccia ed è il massimo. Però la salsiccia deve essere quella buona, ci mettono quella da prezzo la salsiccia. Eh beh, certo, è quella buona. Guarda, Monica mi ha mandato un video che c'è questo cane, e cani, e c'è questo Jackie Russell, lo dico balla, guarda, già te lo mando. Uguale al cane mio, uguale identico. Ma che strano, è mio, mi dice che assomiglia a Jackie Russell, ma a ben detto chissà che c'è la voce che dice Jackie Russell, fate vedere un cane che è uguale a mio, uguale, uguale, e cosa c'è? Vuole uscire, vuole, è bello, cioè se faccio uscire. Sì, Tony, io te l'ho detto che ci avevano qualcosa del Jack Russell. Il Jack Russell ce l'avevano come cosa, c'erano anche l'indole del Jack Russell, il fatto di saltare, di fare, di vederti sopra come i gatti. Egia, ha tutte le caratteristiche, il viso, gli occhi, cosa, l'ha guardato anche il mio vicino di casa, si è detto il Jack Russell, a me mi hanno detto che era un meticcio, non so, non ne conosco io cane, quando tu mi hai detto la prima volta, assomiglia a Jack Russell, ho avuto a guardare su coso e su internet che Marco li conosce, Jack Russell, ha fatto un gozzo. Sì, ce n'è gente vicino a casa, ce ne sono due che ce l'hanno, uno ce l'ha bianco, tutto bianco, e l'altro ce l'ha del colore di tuli. Sai cosa fa? Lui con la, per dire, io stavo parlando con la ragazza, è arrivato lui cazzo, ha mollato la ragazza, gli è saltato sopra, lui se l'ha tutto abbracciato, gli è saltato, se l'ha abbracciato al collo, se l'ha abbracciato. Tu pensa che salti fa? Allora, il mio, quando lo trovo, si è avvicinato, c'è Vittorio qua vicino a casa mia, al cancello fuori, siccome in questo qua non lo so perché, non lo può venire. È andato abbaiando, saltando, a giumai, è arrivata la faccia sua, pensa un po', ha detto, il cazzo quanto salta il suo cane, ma proprio al cancello l'ha quasi superato, eh. Il cancello è alto, mi sembra 1,60 una fare del genere. Io sono un cangurio sul cane, mica non me lo so, perché c'era questo amico mio, ti ripeto, stavo parlando con la ragazza, lui è arrivato in macchina e praticamente, come ha visto a lui, ha mullato la vicina, è andato correndo, è brincato innanzi, finché ha abbracciato nel collo, lui ce l'ha tutto abbracciato, ce l'ha abbracciato. E io quando rientro in casa già, tu vedi le feste che mi fa saltando, mi musicheggio un ascio, sono attento, quello che mi ha fatto uscire un sacco, la mazza in varia, sono guai, non lo fare più, mi... E salta veloce, e dopo gli braccio, alza, mi dice un guto, comincia a baciare una bacia all'accia, faccio un casino, poi fa sì, contento, proprio a metà. Invece l'altra c'è un altro carattere, sono geloso uno dell'altro, però quando io sono andato a prendere la nera per coccolarla, currienta, l'ho rinchiata, era giurita, canto bene e si monietta, mo che l'offia. E però la nera è più pesante, e però è agile lo stesso. Perciò cosa fai? Dice, tu mi putti così, zitta zitta. Allora, quando metto di mangiare, il cane nero si mangia perché lo aspira a polvere, rimane tutto veloce. E se fuori abbaia, la piccolina vuole mangiare, va fuori correndo, lui rientra, si mangia quella della sorella. Sai, sai, sono geloso anche quando con le pappagalli che gli dico, vieni, mani, piccolino, e lui. Non lascia mai fare ridica, comunque c'è una compagnia, guarda questi cani, tu già ce l'hai, quindi è tutta un'altra cosa, meglio Niccolo un cane amico che un amico cane, ma è vero, perché il cane non ti tradisce mai, dai. Il cane, guarda, lo puoi trattare male quanto vuoi e ti sta sempre appresso. Guarda quelli che chiedono le limosine eccetera, ce l'hanno sempre a fianco il cane, non l'hai mai notato? Sì, sempre vicino a loro, anche se mangio un pezzo in mano, quando capiteggio, bavaraccia, i miei sono troppo trattati bene, sono da rega, al caldo, non li manca mai il pollo, lo ciccino, leva fresca ogni anima, d'estate mettiamo un po' l'acqua fresca, più fresca ancora, la mischiamo con quella del frigorifero, e insomma, sempre trattati bene, sempre. Cosa vuole di più? Boh, il cortile ce l'ho per scolata da una parte all'altra, sono sempre liberi, ma hanno le crocchelle, non li mancano mai, e la mattina li do con la fare che cosa dentro, che loro le pulisce i denti o per l'alice eccetera, io compro i pacchi grandi, capito, della Purina, che sono i migliori, il treno invece è cosa delle crocchelle. Oh, Tony, ma quel cane l'avevi ritrovato? Che cosa? Il cane l'avevi ritrovato? No, non era mio, era di Roberto, no, non l'ha più trovato, Jack Russell, peccato. Torres che l'hanno segnalato, tu mi... addirittura a Roberto l'hanno segnalato che vicino ai carabinieri, si vanno correnti e era tutto un altro cane diverso. Cioè, un po' da una parte all'altra. Per me, allora, quel cane, due sono le cose, mi. O è stato con la macchina, l'hanno cuttuto nella dremma, oppure qualche uno che se l'ha fregato e non sa, mi sarà morto perché c'aveva le sbagnosi, perché tu me l'hai detto Roberto, lo stava curando, oppure c'è qualcuno che ha curato ce l'ha in casa, perché è possibile, e chi tu cane non è più tornato, l'è mancato. Allora, ne hanno segnalato uno da Nonna Isa, al bar di Nonna Isa, che sta cercando, sembra che cerchi il padrone, l'ha segnalato una commessa, che praticamente al bar di Nonna Isa a Porto Torres. E dov'è il bar di Nonna Isa a Porto Torres? Via delle vigne, Toni. Via delle vigne, angolo, via Principe di Piemonte. Ma dove c'era prima Emeluca? Esatto. Non ho capito. Ci scenderò forse con Roberto, niente di strano, ma non domani, anche domani no, non posso, domani devo andare pure a uscire. Guarda su Facebook, guardalo, magari glielo fai vedere a lui se c'hai Facebook, su Facebook l'hanno segnalato, ma non so se a tutti ti arrivi. Allora, adesso del parere ci vuole la medaglietta, come ce l'ha Dea, come ce l'aveva Luna. Nome del cane, numero di telefono. Io a Dea l'avevo persa, se ti ricordi, alla marina di Sorso già. E l'ho trovata grazie a questa medaglietta che gli ho messo. So come facevo? Ma l'avvocato è un tipo che lì non si faceva manco toccare. Lo ringhiaffa. Come mi ha visto, guarda, è saltato di gioia la bagaglia gioia. E ha perso sia pettorina che guinzaglio, mannaggia, l'uovo nuovo col guinzaglio, stavo pagando a 20 euro solo la pettorina, tra la pettorina e il guinzaglio 30 euro. Oh Luca, guarda che il cane mio, cioè il cane di questo Jack Russell che è sparito al microchip come il mio stesso. Io ho capito, però magari se ha la medaglietta ancora meglio. Perché vedo il numero di telefono, ho capito tutto. Ho capito, vabbè. Comunque la coppa è anche sua, perché io ho detto, il cane ti esce sempre fuori, sempre in giro, una parte all'altra, e l'ha tolta in campagna vicino a mia sorella, gli ho dato la rete, l'ha messa, poi il cane si è fuggito, ma scusa, è la rete? E il poverino stava piangendo, l'ho fatto uscire, ho aperto la rete, e mi ha detto, ma così, va bene tu, non è più tornato. Scusate, io siccome so che il primo cane a me mi l'ha ammazzato i ronchi, e so che chi è comunque, anche se non lo dice, ma è evidente. Allora mi sono fatto uno tipo voliera dove fuggiva il cane, perché il cane già lo sai, quando sono femmine, sono i caroni che fuggiva, ed era che i cani e volisci, e volisci giocare a fare il casino. A me mi è sparito due giorni, mi cazzero c'ho freddo mio che era un cane, fetto il gozzo, ma come me era già avuto era la zia Maria, ma comunque per dirvi. Niente, ho tutto chiuso, me l'ho sigillato, non esce più il cane, grazie a Dio. Comunque la medaglietta vuol dire tanto. Io quando ripeto forse a Dea sono stato un po' mi sono fatto dalla marina di Sorso fino al settimo picco quasi, e alla fine sono arrivato a piedi in spiaggia, mica è tosta a me, nulla, chiamando, niente, sicuramente era lì quando la chiamavo, ma era nascosta da qualche parte spaventata. Infatti poi cosa ho fatto? Sono tornato indietro, nei pettini dal settimo, sesto, tutti i pettini sono fatti. Arrivo al primo pettine, mi arriva una chiamata, un numero che non avevo memorizzato, sì, pronto. E salve, ascolti, io sono qua alla Marina di Sorso, c'è questo cagnolino di nome Dea che non si fa toccare. Ti ho detto, guarda, via 10 minuti, quello che ho visto dalla strada, inizia a correre, ma che me era a 180. Io via. Come l'ho fatto quando ho trovato il pappagallo io? Quando mi ha visto era super felice, vabbè, è normale, sono il padrone, cioè, il cane riconosce il padrone, cosa ne dici? Io, cioè, mi hanno detto la gente che gli sono scappati i pappagalli, che non li trovavo più, che se ne era andato lontano, addirittura mi ha fatto le carte, questa qua mi ha detto, non lo cercare nemmeno perché è molto lontano, di cioè dove li annulli. Tyson mi portava sempre sotto questo palazzo, io lo sentivo questo pappagallo, però dicevo magari non è il mio, magari ho paura che sia il mio, ma non è il mio. E invece poi mi ha fatto una telefonata questa signora, mi ha detto, ascolti, ma lì ha preso il pappagallo, e tu sì, poi l'ho messo anche su Facebook, e mi ha detto, guardi che l'ho trovato io, ce l'ho a casa, mi ha dato la via, tutto quanto, sono andato e me l'ho preso. Sembra così, Tony, anche se il cane ha il microchip, ok, ci sta, però è più facile arrivare a te, con microchip non è, sì, ti trovano comunque perché c'hanno l'indirizzo, ma invece così, ti chiamano e poi te lo prendi. Lo so, ma Roberto questo non l'ha fatto, capito, della medaglietta. Vabbè, io non escono mai, quindi non è che sono recluso in casa perché sono, hai visto, il giardinetto, loro giocano da dentro, la moglie ha fatto quello che dovevano fare. Ma lui giustamente, non se il posto ce l'aveva, ma lui era libero il cane suo, sempre libero, veniva da me, andava a battere l'acqua, andava verso la parte dove abita mia sorella, che sono due chilometri. Se l'ha trovato mia sorella, dimmi un cane. È un casino, insomma, quel cane girava tutta la campagna, tu pensi che sono 13 ettari qua, il tuo cane sempre in giro, una batta all'altra, poi tornava a casa sua giustamente, però va bene, piccolino. Torino, passa la macchina, gazzicheggia, però è sparito di colpo. Lui pensa che gliel'ho fregato, perché una volta da poco qua c'era una festa, da quando è sparito il cane, con tutta la gente che c'era, ha detto, che bello che il cane, l'avrei furato, lui ci pensa solo quello, da me l'hanno rubato. I gettonassi sono fuori da caccia, li usano per caccia, per scavare i conigli, eccetera. Quindi magari è capace che qualcuno cacciatore si abbigliasse. Niente di strano, può anche essere, perché no? Io sono dai mio, il mio praticamente è anche l'altro, sono c'è in campagna, i tupi ci sono, ogni tanto non c'è pure un muscolo, ma tupi grandi, mi meraviglio anch'io, è poco veloce, quindi infatti non aggiungo più sarroni, o tibili, no, che bisogna essere. Ce l'hanno l'istinto dalla caccia. Sì, poi molto veloce questo qua, capito? Andrà bene, dai signori, 8:20 che mo mi preparo il tavolo e inizio a mangiarmi queste salamuzze che mi sono fatto, che sono buone. Ok, ci sentiamo già. Ciao Luca, state bene, buon proseguo, alle prossimine. Ciao ciao. E male a poco. Ciao ciao, buon appetito, avanti. Ciao Tony, buonasera. Ciao già, mi devo rifare perché oggi non ho pranzato a Luca, che quindi lasciami fare, lasciami mangiare, se no non respiro più. Ciao di nuovo Luca, ciao ciao. E lasciami mangiare. Ok. Oh Gianni, ma quando fai duetti con quelli là li conosci, sì? No, non tutti. Qualcuno sì, qualcuno dipende. Sì, no, nel senso, quando li saluti sono reali o è solo una cosa virtuale? No, diciamo che loro fanno, allora, loro ti fanno il duetto, no? E fanno la parte loro, poi tu fai la parte tua, capito? Sì, ma la gente è reale. Sì, è reale, sì. Ah, perfetto. Con qualcuna cicciato anche. Ah, perfetto, di fuori sono? Ce n'è anche sarde. Ne ho trovato una che era di Sennuri e un'altra della parte di Oristano. Ho capito. Dipende, capito. E poi ci sono coppie che si sono anche sposate su, lo sai, su Star Maker. È entrata una coppia l'altro giorno nella nostra famiglia è entrata e ci hanno detto che praticamente si sono sposati. Adesso lui ha trovato il lavoro fuori ed è partito, però si sono sposati, lei abita per dire a Milano e lui è andato a Roma a lavorare. Una cosa già, per poter cantare lì ci vuole una scheda? No, non ci vuole niente, tu devi solo iscrivere e basta. E come fai a elevare questo effetto che ti dà? A fare? L'effetto ecco che avete, perché non è un audio abbastanza alto. Ci sono gli equalizzatori per regolare tutto, c'è volume musica, volume della voce, poi c'è, ci puoi mettere effetto eco, effetto karaoke, effetto discoteca, eccetera eccetera. Io vorrei provare, mi fate entrare nella vostra famiglia? No, non c'è problema, no. Basta che guardi, devi guardare, aspetta, che ci fanno io vedere dopo, perché non lo guardo mai, vabbè, quando me lo ricordo. Allora, Star Maker qua, ce ne sono due, il primo o il secondo, Skywalk, qual è dei due, il primo o il secondo? Il primo, l'altro forse hanno fatto delle modifiche, capito? Dovrebbe essere il primo, quello che è rosa, c'è la stella. Sì, vabbè, me sta cercando tutti e due, non so perché. Aspetta. Ma cosa devo mettere, mail, password, cosa devo fare? No, devi mettere i guardiani di Ra, la famiglia, i guardiani di Ra. Ra sarebbe il dio del sole. Vi vedo cantare in diretta. Allora, ti spiego. Si possono fare tante cose, non si canta solo. C'è il salotto che la sera noi stiamo a parlare, ti fanno ci sono le poltrone disegnate, tu ti prendi un posto in ogni poltrona. Poi ci sono i giochi da fare, puoi fare i giochi, puoi cantare, puoi fare duetti, puoi fare un sacco di roba, però quando ci sei dentro, perché è un po' complicato, perché per fare certe cose bisogna accumulare punti, per accumulare i punti devi magari scrivere alla famiglia, eccetera, eccetera, capito? Non è un po' complicato, però una volta che tu ci sei dentro capisci tutto. Sì, aspetta, questi punti della serie che devi spendere soldi, devi comprare qualcosa? No, allora, nei giochi si può entrare sia caricando e spendendo soldi, sia giocando, puoi giocare e accumulare i punti, fai le lotte tra le famiglie, per dire, come ti posso dire, ci sono delle famiglie, una che si chiama Core Musica, l'altra che si chiama i Guardiani di Ra, eccetera, eccetera. Fanno i giochi, fanno le battaglie, ci sono le battaglie dei castelli, c'è il gioco del mostro pazzo, eccetera, eccetera. Quando tu vinci, poi vai e ti ritiri i premi, capito? Ascolta una cosa, allora qua dice stato di visita, registrati, mi dice qua. Registrati, sì. Una volta che tu sei su Star Maker e guardi le famiglie, metti la famiglia. Poi io sono stato un po' libero senza avere nessuna famiglia, perché se entri nella famiglia devi fare i compiti, capito? Da noi no, da noi sei libero, da noi non ne devi fare i compiti, se li vuoi fare li fai, se non li vuoi fare non li fai. I compiti sono praticamente fare i giochi, cantare, fare i duetti, sono cose quasi obbligatorie per fare i punti. Però se tu vuoi solo cantare o vuoi stare solo in salotto e nella room dove si parla, stai nella room dove si parla, capito? Allora qua dice effettua il tuo login, goditi tutte le funzioni Facebook, Google, TikTok oppure altre modalità. Tu metti TikTok, così ti fa le canzoni e te le puoi mettere lì. Tu ci sei registrato, tu metti TikTok? Cioè la bagarra. Ok, autorizza qua il tuo account Zeluca Sardegna. Metti quello, praticamente tu stai entrando con TikTok, mi hai capito? Buonasera, comunque, che ha salutato. Qua mi dice data di nascita. Allora, aspetta. E ti devi fare il profilo menu, capito? Il profilo come da altre parti ti devi fare. Ti metti, devi farti il nickname, ti puoi mettere in un carriero, poi quando tu entri in una famiglia ti danno gli stemmi, perché in famiglia c'è sui stemmi, capito? Allora, ma sono andata di nascita. Ma poi se ti chiede, quando tu ti iscrivi in una famiglia, ti chiede di fare praticamente tutto il coso, capito? E metti il nickname, ti mettono a fianco, ti mettono gli stemmi, ogni famiglia ha il suo stemma, capito? Noi ci abbiamo il sole, c'è quello che magari c'ha, cosa ti posso dire, il delfino, eccetera, eccetera. Noi abbiamo il sole, perché il Ra era il dio del sole greco. Allora qua dice, chi canta, canta, pastello bianco, poi vabbè, io sono qua adesso, indovina le canzoni, cosa devo fare? Cerca la canzone dei cantanti. Allora, dove c'è scritto canta, clicca lì e ci puoi mettere la canzone che vuoi tu, sopra lo scrivi tu, oppure scegliere tra le canzoni che ti dà, capito? Scegli la canzone, ti devi mettere le cuffie col microfono perché ti senti all'interno, tu quando canti ti senti. Ma ce le ho rotte le cuffie col microfono. Ehi, vabbè, ci vediamo, lo fai vedere, dai. Luca, puoi cantare anche senza microfono, puoi cantare anche solo col microfono del telefono, però non ti senti, capito? Quello ti serve per il tempo, ti regoli molto meglio per il tempo, capito? Quando invece lo fai fuori, magari tu avendo cantato già al karaoke ti regoli meglio. Allora, aspetta. Sì, ma... aspetta, chiudi. chiudi. Allora qua dice canta insieme, ma se io voglio vedere gli altri cantare, cosa devo fare? Se vuoi vedere gli altri cantare, ci sono le cover, ci sono, però devi essere in una famiglia per vederli, capito? Devi iscriverti in una famiglia e vedi tutte le cover che fanno, i duetti, c'è scritto duetto sopra, clicchi lì e puoi fare i duetti. Se no è semplice, no? Sotto le canzoni qua canta indovina canzone, cantare, come si chiama il vostro gruppo? I Guardiani di Ra. Sta attaccato o staccato? No, Guardiani di Ra, staccato. Allora, i Guardiani di Ra, R-A. Vediamo un po' questo qua. Birra, R-A, sarebbe il dio del sole greco. Ma forse è tutto attaccato, perché non me lo dà? No, non è attaccato, è staccato. Con l'accento sulla A, Ra? Non c'è nessun accento, Ra normale. C'è un gatto disegnato. C'è un sole. No. Aspetta. No, niente, già, no. Fammi lo screenshot e mandamelo, non me lo dà. Vabbè, lui ti lascia adesso perché devo andare a portare il cane. Ci sentiamo, dai, magari lo facciamo insieme pure. Ok, da. Mi sto per vedere come funziona sta cosa, va bene, già, ciao. Attenzione, 10. Magari. Come dici un leone?